Beh, io me ne occupo da tanti anni, andai a incontrare Assange nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra nel 2013, poi condividemmo alcuni spazi insieme, io ero a Quito e parlai della libertà di informazione, lui era collegato sempre da quell'ambasciata. È una vicenda vergognosa perché nel cuore del cosiddetto democratico e libero occidente, ovvero a Londra, in una cella di 2 metri per 3, nel carcere di massima sicurezza che si chiama Belmarsh, che dista circa 11 miglia di distanza da Westminster, dove sono stati incoronati recentemente Carlo e Camilla, re e regina del Regno Unito, sta marcendo in carcere un giornalista che non ha subito mai alcun processo, che non è uno stupratore, cosa che hanno voluto raccontare per screditarlo, soltanto per aver svelato delle schifezze commesse dal cosiddetto appunto libero occidente, in particolare gli Stati Uniti d'America, per aver svelato una serie di oscenità commesse appunto essenzialmente dal complesso militare industriale americano, per utilizzare un'espressione di Eisenhower, cioè per aver dato delle notizie vere e di pubblica utilità che ci hanno consentito di comprendere le ragioni oscure dietro i conflitti in Afghanistan, in Iraq, in Libia, dietro i comportamenti del Dipartimento di Stato. WikiLeaks continua oggi a dedicarsi anche chiaramente a fornirci delle notizie rispetto a quello che avviene adesso. Pensate che una settimana dopo l'attentato di Hamas ha pubblicato un documento del Ministero di Intelligence israeliano dove c'è scritto il reale piano di Israele a Gaza, che è per un piano di pulizia etnica, di ricerca di esodo forzato, cioè vogliono far andare via gli abitanti palestinesi di Gaza per occupare tutta la striscia, quantomeno una parte di israeliani a questo intento. Ecco, pensate cosa sta avvenendo. Cioè, mentre noi ci dedichiamo ai diritti umani in tutto il mondo, parlando dell'Europa, dei valori occidentali, gli Stati Uniti, la culla della democrazia e compagnia cantante, un giornalista sta marcendo in carcere da 11 anni, non ha di fatto libertà, per averci dato delle notizie vere e di pubblica utilità. È una roba vergognosa. Chi dice, ah, ma in Russia avviene, in Cina avviene, a me non mi frega niente quello che avviene altrove, o meglio, mi frega, ma mi interesserebbe maggiormente che le libertà fossero garantite nel libro e democratico occidente, questo che non avviene. Con questo monologo che ho scritto, poi non pensavo che il teatro fosse una modalità di comunicazione così potente, io non pensavo mai, avrei pensato di scrivere un monologo teatrale, di interpretarlo in un certo senso, ovviamente non è che faccio l'attore, io racconto la vicenda di Assange di WikiLeaks. Attraverso questo monologo, che appunto il 10 ci sarà mercoledì al Teatro Duse, io cerco anche di unire i fili che legano, ahimè, all'Afghanistan, all'Iraq, la Libia, gli interessi italiani, la perdita di sovranità italiana, la totale supremazia politica e economica degli Stati Uniti d'America sull'Europa, la guerra in Ucraina, la narrazione che è stata fatta di tutte queste guerre e anche il tentativo di genocidio a Gaza. In particolare su Assange molto, come dire, del senso sta nel sottotitolo, cioè colpirne uno per educarne 100. È esattamente questo, perché io mi immagino un giovane giornalista, reporter, che arriva ad ottenere documenti segreti estremamente dirompenti sugli Stati Uniti d'America, è una violazione dei diritti umani, è un crimine di guerra di un paese occidentale, parliamo di un paese occidentale. Quante volte ci pensa a pubblicare o meno quel documento pensando ad Assange che marcisce una cella 2 metri per 3, durante il Covid passava all'interno di una cella 2 metri per 3 23 ore su 24 al giorno? Cioè, quante volte ci pensa un normalissimo giornalista, magari all'inizio della sua carriera, pensando a che fine appunto sta facendo un uomo, Assange, famoso in tutto il mondo, perché qui non è che parliamo di una persona sconosciuta, parliamo di una persona che ha supporti internazionali, dei cittadini, non delle istituzioni, che viene alle volte anche da parte di piccole istituzioni coraggiose, gli viene conferita la cittadinanza dei vari comuni, anche in Italia è successo, cioè una persona così conosciuta, con alle spalle una scorta di cittadini così grande, sta di fatto morendo in carcere. Questo è il sottotitolo, colpirne uno per educarne 100, perché a mio avviso l'obiettivo non è soltanto distruggere la vita di Assange, è un obiettivo già raggiunto ampiamente, perché i figli lo vedono da dietro le sbarre, da sempre praticamente. L'obiettivo è evitare che possano nascere nuove Julian Assange in futuro, per questo colpirne uno per educarne 100 alla passività, alla pavidità, al conformismo, quello che purtroppo l'immagine del giornalismo occidentale e italiano, cioè salvo delle rare eccezioni. Ma pensate, ieri sono stati assassinati a Gaza altri 2 giornalisti, mai nella storia degli ultimi decenni sono stati assassinati durante la guerra così tanti giornalisti, e l'esercito israeliano non punta direttamente ai giornalisti palestinesi perché odia la verità, quindi sono omicidi mirati e deliberati, non sono errori o vittime collaterali, no, sono omicidi mirati. Ma voi vedete sui giornali italiani, salvo eccezioni, levate di scudi, attestati di solidarietà, no, sono tutti passivi, intimoriti, desiderosi di salvaguardare il proprio orticello, la propria carriera. Io li chiamo sempre, più che giornalisti, sicari della libertà di informazione. Hanno tutti paura, e un tempo quantomeno facevano squadra insieme, giustamente protestavano quando un giornalista veniva colpito, ma invece si protesta quando giustamente viene messo in caccia un giornalista in Russia, in Iran o in Cina, e si sta zitti di fronte alla strage di giornalisti a Gaza, di fronte a questo scandalo vergognoso che è appunto l'infame prigionia di un eroe, perché Assange è davvero un eroe, perché nella storia, lo racconto a teatro, se lui a un certo punto si fosse fermato e i segnali indicavano questo, no? I poteri più importanti del mondo dicevano pubblicamente ad Assange: basta, se hai questo materiale non lo pubblicare perché fa una brutta fine, questo è il segnale. Se lui si fosse fermato lì oggi sarebbe libero, farebbe conferenze strapagate in giro per il mondo, libri su libri, con una parte del materiale che appunto già aveva pubblicato. Invece non si è fermato, ha deciso di pubblicare tutto quello che aveva e oggi sta marciando in carcere. Dunque è questo l'obiettivo, anche raccontare che esistono, sono esistiti, esistono, spero esisteranno ancora giornalisti liberi che sono disposti a perdere tutto pur di fornire alle pubbliche opinioni delle informazioni, no? Che è questo poi il cuore del giornalismo vero. D'altro canto in Italia abbiamo avuto giornalisti che sono morti sapendo che rischiavano appunto la vita, come oggi a Gaza, penso a Siani ucciso dalla camorra, ma tanti altri che sapendo appunto di rischiare la vita hanno deciso comunque di fornire alla pubblica opinione dell'informazione. Assange sapeva di rischiare la vita, e di fatto non è che ti uccidono soltanto una pallottola in testa, ti uccidono anche facendoti marcire in carcere, e non si è fermato. Io racconto tutto questo cercando di far capire agli spettatori di dare una serie di elementi e di ricordare determinate cose che diamo per scontate, ma che se oggi le conosciamo è grazie ad Assange e Wikileaks.